dottore. Ciao, Tom. Che? Ciao, Franco, ciao. Non sto capiscono, allungala un po', terminala. Sì, scusa Gian Maria, ero lontano dal microfono. Oh, ciao Gianfranco. Non so, non capisco, siccome non l'ho completato, allora non riuscivo a capire bene. Buonasera, e beh, come va? È come da te più o meno, caldo. E ne farà ancora, ne farà tanta ancora, per cui, per carità, qua si muore. Sì, infatti dopo mi accendo il condizionatore, perché non fa, se no è veramente troppo alta. Da mattina presto inizia e anche la notte poi scende quell'umidità, sta la macchina bagnata, però c'è quel caldo brutto, inizia la notte è anche peggio, perché se c'è caldo e basta va bene, ma quando attacca l'umido non ti fa dormire. E quell'umidità della notte è peggio ancora, quello è peggio del caldo, fatti male. E il macello è qua, il condizionatore sta facendo rosso e giorno, sia in cucina sia in cameretta, per carità, non si può fare. Si può, poi specialmente io lo soffro maledettamente il caldo, per cui era male anche la ventola, un po' la ventola, un po' il condizionatore, perché con la ventola magari fa meno male, dai. Certo non infresca come il condizionatore, però già va bene ugualmente, è già giusto così. Purtroppo penso ancora una settimana, poi vediamo cosa succede, perché è veramente micidiale. Tu pensa che in Portogallo hanno raggiunto i 50. Il 50, te lo immagini Giovanni, mai sentito. Purtroppo anche queste cose capitano. Infatti è la prima volta nella storia che riescono a fare una misurazione di questi figli. Cose brutte. Vabbè, purtroppo ci sono le cose buone, ci sono le cose cattive e quello si vuoi fare. Un attimo al telefono. Ok, Giovanni. Signor Battisio! Signor Battisio, cambio.